ti ringrazio perché hanno accolto da subito il nostro invito. E poi anche perché il loro tema è un po' particolare, toccheranno appunto il ruolo della donna nella zona industriale, nel periodo appunto, soprattutto nel periodo fascista, quindi diciamo le origini della zona industriale, e poi ci accompagneranno appunto in questo cammino, in questo profilo diciamo storico che abbiamo iniziato a tracciare con la mostra e che proseguiremo fino alla fine di ottobre, visto che la mostra sulle acciaierie si sta insomma avviando alla conclusione, ancora questa settimana rimane aperta al pubblico e poi termina. In questa occasione volevo anche lanciare così un appello, nel caso conosceste persone che con questa occasione hanno scoperto di avere a casa delle foto, del materiale che potrebbe essere interessante e soprattutto hanno anche dei ricordi che vorrebbero condividere, la biblioteca non termina il proprio lavoro con questa circostanza, ma ha intenzione di andare avanti nella raccolta della documentazione e anche così nella valorizzazione di alcune testimonianze, laddove ci fosse appunto la disponibilità delle persone depositarie, chiamiamo così. Quindi chi ha foto, chi conosce qualcuno che ha delle fotografie, dei ricordi, o vuole così lasciare un proprio ricordo, così è pregato di rivolgersi alla biblioteca. Pensavamo di proseguire in primavera cercando di affrontare dei temi che non sono stati toccati in questa occasione, perché comunque per fare una mostra fotografica è necessario, torto collo, fare una selezione. Quindi da 4.000 foto ne sono state selezionate circa un centinaio e anche le testimonianze, il taglio è stato più antropologico e sociologico. Quindi ci sono tanti tanti settori ancora da investigare e da portare in luce, non ultimo quello dei movimenti sindacali e quello dell'aspetto più squisitamente tecnologico, che ha avuto un'evoluzione e un percorso, direi, d'eccellenza. Quindi, a parte questo spot, ecco, ma ci tenevo a ribadire, ecco, perché in questi giorni abbiamo visto tante persone sono venute qua in biblioteca e ci hanno detto: "Ah, oh, ma io a casa ho ancora delle foto, non sapevo che voi raccogliste." Insomma, sta venendo fuori un interesse, una voglia di partecipare che sinceramente non ci aspettavamo. Quindi cedo subito la parola, ecco, ad Alessandra, che forse vuole darci qualche dettaglio in più circa la presentazione di questa sera, e alla dottoressa Trucco-Rosa. Grazie ancora. Abbiamo sempre comunque una bibliografia, nel caso foste curiosi di approfondire qualche argomento, siamo a disposizione con il nostro materiale oppure cercandolo in altre biblioteche. Grazie ancora. Io sto per il microfono come... Allora, se parli al microfono registriamo e quindi il tuo intervento lo possiamo mettere sul podcasting, per cui chi non è venuto questa sera o chi fosse interessato lo può guardare su internet. Intanto grazie alla biblioteca per l'invito e grazie ai presenti. Vorrei subito chiarire delle cose perché purtroppo nella comunicazione, un po' perché le cose sono venute in estate, forse io ero anche in ferie per cui non ho guardato tutte le email, è successo su quanto riguarda il contenuto della relazione rispetto al titolo, ci sono alcune cose da far presente che purtroppo non rispettano il titolo, speriamo però di essere lo stesso, cioè, lo dico subito in modo poi che la Rosanna dirà le sue cose. Perché storia del lavoro femminile e ruolo della donna negli stabilimenti Lancia 43-60 con Rosanna Pruccoli e Alessandra Spa. È stato corretto adesso Lancia, è stato messo perché era acciaierie fino a poco tempo fa. Allora, questo è stato corretto nell'ultima locandina. E questo sarà l'intervento poi di Rosanna Pruccoli. Per quanto il mio intervento, che è un breve intervento introduttivo per introdurre poi il discorso appunto che farà Rosanna, io ho preso un po' in considerazione il periodo precedente al 43, cioè il periodo dell'epoca fascista, e mi fermo a quel periodo e parlerò soprattutto appunto del lavoro, ma del lavoro in senso lato, non tanto del lavoro delle donne operaie durante il fascismo, un po' perché sono ricerche che purtroppo mancano completamente per quello che è mia conoscenza, tanto che ne parlavamo anche con l'autorista Trevisan, se magari in futuro far partire proprio delle ricerche mirate sulle donne operaie, tra virgolette, in senso lato, nel senso che c'erano sicuramente. Anche prima dell'avvento del fascismo e anche prima dell'avvento della zona industriale, pensiamo solo al cotonificio e i materiali in tempi abbastanza recenti, so che sono stati messi a disposizione all'archivio provinciale, però la ricerca su questi materiali, ad esempio, manca completamente ancora, così come manca proprio un lavoro sulle operaie nelle zone industriali di Bolzano a partire, diciamo, da metà degli anni 30, da quando, cioè, queste sono state istituite. Quindi il mio discorso introduttivo è un discorso un po' più generale che parla, diciamo, di quello che era il ruolo, diciamo, della donna in epoca fascista qua in Alto Adige e le professioni che svolgeva per la ricerca che sto facendo io, che è in corso e che non è ancora ultimata, riguarda appunto un lavoro nel senso più di carattere assistenziale, diciamo socio-assistenziale. Comunque, e poi diciamo tutto un che era in parte remunerato e in parte invece era gratuito. E comunque tutta l'organizzazione poi legata alla struttura dei fasci femminili che avevano un fortissimo ruolo assistenziale anche qui in provincia di Bolzano ed erano presenti. Quindi mio è proprio un discorso anche abbastanza breve, introduttivo, per lasciare poi la parola alla dottoressa Pruccoli che si soffermerà più sulle donne operaie. Dunque, io appunto per non dilungarmi troppo, per, così, no, per stare in piedi, se noi dobbiamo ragionare appunto sulle donne in epoca fascista, dobbiamo innanzitutto dire una cosa: il fascismo, come sappiamo tutti, prende potere nel 1922 e. Dopo, diciamo, pochi anni dopo la prima guerra o la conclusione della prima guerra mondiale, e in questa fase, diciamo, pre-fascista, a livello italiano, nazionale, ma anche a livello internazionale, erano in atto una mobilitazione abbastanza forte di donne, sia di donne socialiste che di donne liberali, che lottavano per l'ottenimento dei propri diritti. Su questo non mi soffermo, ma è un po' appunto la premessa. Con la prima guerra mondiale, le donne assumono dei ruoli, questo anche è noto, tradizionalmente maschili, per necessità, e dopo la guerra, tendenzialmente tornano nei loro ruoli tradizionali, appunto di madre e di moglie, tra virgolette, esemplare, come dirà il fascismo. Però anche tutto questo movimento precedente non è che non lascia i segni, lascia dei segni abbastanza forti, tanto che subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, in diversi paesi europei, viene introdotto il diritto di voto. Anche in Italia ci sono dei dibattiti per l'introduzione del diritto di voto, di fatto parzialmente viene anche introdotto, ma poi revocato con l'avvento del fascismo. Questo diciamo come luogo politico di premessa. In Austria, in Tirolo, le donne acquisiscono il diritto di voto nel 1918 e quindi il passaggio del Sud Tirolo, dell'Alto Adige all'Italia comporta anche diciamo, questa perdita di diritto che le donne avevano acquisito. No? Quando si parla appunto di tutto il male o il bene, più del male parlano, almeno in realtà si parla del bene di questa annessione, va detto, si dimentica sempre che anche le donne hanno perso qualcosa, hanno perso un diritto, le donne sudtirolesi che avevano acquisito. In Italia, come sappiamo tutti, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale otterranno il diritto di voto. Con l'avvento del fascismo, che cosa avviene in Italia e di conseguenza anche qui in Alto Adige, perché poi le politiche da questo punto di vista sono abbastanza simili come politiche generali, cosa succede? Che una cosa che va detta, il partito fascista è forse il primo, non vorrei dire, ma comunque quando prende il potere nella sua politica ha anche un'idea molto chiara di politica per le donne, cosa che è abbastanza nuova, nel senso che di solito le donne facevano le battaglie, ma non avevano mai fatto parte organica di un programma politico di governo. E il fascismo ha ovviamente una sua idea di donna, che sappiamo anche molto bene quale fosse, quello di moglie e di madre esemplare. E, però rientra nelle sue politiche, quindi loro cercano proprio di strutturare anche una serie di organizzazioni, una serie di istituzioni, una serie di strutture, proprio per valorizzare, secondo il loro punto di vista, ovviamente il ruolo della donna. E questo avviene anche in questo territorio in maniera abbastanza incisiva. Quello che è molto interessante e che distingue le donne di quella politica per le donne in questo territorio rispetto ad altri territori è diciamo che qui si carica di una missione aggiuntiva ed è la missione della madre in quanto colei che trasmette una lingua e trasmette una cultura. E quindi le donne qui in Alto Adige devono assumere quasi in primo piano questo ruolo di coloro appunto che trasmettono la cultura della nuova nazione. E quindi c'è questo elemento in più, no? Proprio rispetto a qui c'è sempre questo discorso di donna, lingua e nazionalità. Mi preme anche fare un'altra premessa, che questo discorso è vero sicuramente per il fascismo, ma è vero direi in misura identica anche per quelle che sono le autorità e le istituzioni di lingua tedesca di questo territorio, che durante il fascismo perdono sempre più potere, che però vedono nella donna la stessa identica missione. E poi spiegherò bene perché. Cioè spetta proprio alla donna, e viene detto in maniera chiara su tutti i giornali, alla donna tedesca, in questo caso di lingua tedesca, il dovere e l'obbligo, la missione, diciamo proprio, di fare in modo che i giovani sudtirolesi non perdano la loro unità, quindi sta a loro trasmettere la lingua. Questo Ma la cosa diventa che questo programma politico, nel senso che viene sbandierato e poi ne farà un cenno, purtroppo farà solo dei cenni perché in 20 minuti, 25 minuti non c'è tanto tempo, viene fatto in maniera forte. Quindi questo elemento è un elemento molto caratteristico e tipico di questo territorio. Ecco, per quanto riguarda appunto gli interventi fatti quando il fascismo prende il potere, le idee le ha in quanto politica abbastanza chiare sulla loro realizzazione, in parte avvengono, in parte con un po' di confusione e fatica. Ma comunque io dividerò, diciamo, già distinguo da due momenti. Il primo momento, diciamo, fino al 26-27, cioè dal 22 al 27, e un secondo momento dal 27 in poi. In questa prima fase, cioè dal 22 al 27, gli interventi sono soprattutto degli interventi di carattere sociale, assistenziale, educativo, cioè mancano ancora le strutture, sono degli interventi immediati. E sono interventi, soprattutto la prima cosa da fare è quella che bisogna nazionalizzare questo territorio subito, bisogna fare in modo che la popolazione impari l'italiano il più presto possibile. E questo appunto è proprio le prime cose che vengono fatte. Come vengono fatte? C'era una struttura già in attuale, già istituita nel 1919, che si chiamava ONAIR, Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta, che poi è rimasta in vita con lo stesso acronimo ma con un altro nome fino al 1970 addirittura, credo. Questa Opera Assistenziale Italia Redenta è stata istituita già nel 19 appunto, e aveva l'obiettivo di portare un'assistenza, anzi sì, cioè qui leggo proprio lo statuto, dice chiaramente, era intanto istituita su iniziativa della Duchessa d'Aosta, che era presidente, e proprio nell'articolo 1 dice: lo scopo è quello di assistere materialmente e moralmente le popolazioni delle terre librate, e fra le terre librate c'è anche l'Alto Adige, in particolar modo, questo è importante, con l'istituzione di laboratori femminili e con provvedimenti a favore della prima infanzia, quindi laboratori femminili e assistenza a favore della prima infanzia. Gli obiettivi sono chiarissimi già qui, nel senso che i laboratori femminili servivano per portare le popolazioni di lingua tedesca all'interno di questi laboratori, farli soprattutto su un corso di taglio e cucito, a confronto però con degli insegnanti di lingua italiana, e quindi a familiarizzare con la lingua italiana. L'altro obiettivo ancora più caro, che ha provvedimenti a favore della prima infanzia, cioè bisogna partire subito con i bambini perché è più facile appunto insegnare la lingua italiana ai bambini che non agli adulti. E se i primi anni, quindi siamo nel 19, prima ancora dell'avvento del fascismo, se nei primi anni diciamo che gli interventi vengono distribuiti un po' dappertutto in queste zone, a Trento, Trieste, a Zara, no? E fino alle tue colonie africane come sovvenzioni, ben presto i documenti, abbiamo una fortuna che l'ONU è perfettamente documentato sia a Roma, all'archivio di Stato, c'è tutta la documentazione generale, quindi tutte le linee politiche, sia a Trento che a Bolzano negli archivi provinciali, la documentazione è ben conservata, quindi si capisce perfettamente le politiche romane e poi le strategie locali di attuazione, e questo è quello su cui io sto lavorando ed è estremamente interessante. Quindi i finanziamenti vengono presto spostati proprio su questo territorio, questi enormi finanziamenti, e vengono subito concentrati sugli asili. Tanto che nel giro di pochissimi anni, cioè nel 23, vengono istituiti gli asili di Ortisei, Vipiteno, Bronzolo, Salorno, Pochi, Egna, Santa Cristina, Vadena, Laghetti, e nel 24 abbiamo già la presenza di ben 37 asili. Di asili ce n'erano pochi, due, uno a Trisarco, uno a Bolzano, ce n'era uno a Bressanone, uno a Brunico, ma non erano così diffusi questi asili. Quindi nel 23 abbiamo già 37 asili, che è una diffusione enorme di questi asili. E guardare questa documentazione è estremamente interessante perché, vediamo se lo trovo, perché comunque se non ricordo a memoria, sono praticamente delle strutture tutte completamente al femminile, cioè noi guardando questi documenti troviamo tutta una serie infinita di ispettrici, una serie infinita di vigilanti scolastici, una serie infinita di maestre d'asilo poi dappertutto, dalle suore che ci lavorano, dalle assistenti, dalle bidelle se vogliamo, è tutto un personale femminile che quindi prende in mano proprio la gestione di queste strutture, con un obiettivo abbastanza chiara. Era quello, che è proprio quello di italianizzare, lo dicono chiaramente, quello di italianizzare la popolazione, cioè l'obiettivo è quello, queste maestre, questo esercito di donne che arrivano qua devono italianizzare i bambini, e prima si comincia meglio è. Ci sarà poi anche una nota proprio di Gentile, quando per qui in Alto Adige noi parliamo sempre della tedeschizzazione delle scuole, però è ancora più massiccia i documenti romani, è proprio sono le sollecitazioni del ministro Gentile a dire iniziamo dagli asili, poi si può partire dalla scuola, no? E infatti nel concreto poi questo viene fatto. Cosa c'è ancora di interessante da dire per quanto riguarda questo tipo di strutture? La cosa interessante è che accanto a questo primo obiettivo, che è quello principale dell'italianizzazione, c'è anche un forte, questo va detto, intento pedagogico. Cioè loro dicono chiaramente che non devono più essere appunto dei luoghi di raccolta, solo di raccolta di bambini, ma anche di formazione e di educazione di questi bambini, tanto che vengono organizzati subito già dal 1923 una serie di corsi di aggiornamento per le maestre che ci sono qui, anche per quelle di lingua tedesca, che poi, adesso mi soffermo, pian pianino verranno allontanate tutte e sostituite, e le maestre nuove dei corsi di formazione secondo i nuovi metodi pedagogici dell'epoca, e vengono chiamati quelli che erano i maggiori esperti dell'epoca, fra cui le sorelle Agazzi, le due che erano due nomi di grande prestigio per quanto riguarda proprio il maestro d'asilo e la formazione delle maestre, che poi verranno distaccate presso la sezione dell'ONAER di Trento e di Bolzano e faranno qui le ispettrici e direttrici d'asilo. E il metodo Agazzi-Froebel, che era un metodo pedagogico che poi è andato avanti fino agli anni 60, quindi un metodo comunque innovativo per l'epoca, è un metodo che è stato adottato e introdotto negli asili dell'epoca. Quindi da una parte appunto c'era la missione chiara, bisogna appunto formare, insomma, trovo la definizione proprio sono carina, che come vengono dette, comunque la missione di italianizzare questa popolazione, ma anche appunto di dargli una formazione e anche di dargli, diciamo, per attirarli, anche di dargli dei servizi. Loro, ad esempio, le mense vengono introdotte allora, e c'è tutta un'introduzione di mense dove c'è proprio il menù, dicono dobbiamo trattarli bene, dobbiamo darli da mangiare, perché il modo per incentivare i bambini poveri, diciamo, che ricevono un cibo, e c'era proprio tutto il menù ben articolato, troviamo delle pietanze che venivano fornite a questi bambini con l'obiettivo di appunto trattarli il meglio possibile. E questi asili hanno anche un certo successo, nel senso che non erano obbligatori, però molta gente manda i bambini in questi asili. Ecco, questo, diciamo, all'inizio soprattutto ci si concentra su questa struttura, e l'ONAER cresce soprattutto in questo territorio, per gli asili molto più che a Trento, molto più che a Trieste. Questo dimostra come appunto si investisse qui, e come si desse, lo dicono anche a queste maestre, voi avete questo importante compito, no? Di sostituire praticamente le vere madri, le proprie madri di questi ragazzi, perché se a casa loro parlano il tedesco, voi dovete sostituire la madre nella formazione di questi ragazzi. Infatti poi dice anche nei corsi, diceva, servivano per le maestre, era necessaria una speciale preparazione che mettesse l'insegnante in grado di capire la psicologia di quelle popolazioni e di adattare l'opera sua alle circostanze e ai bisogni locali, conciliando l'opera stessa con le finalità nazionali. Quindi questo, diciamo, è stato il primo grande intervento dove le donne sono fortemente presenti. Accanto, come abbiamo detto, agli asili vengono formate queste scuole di taglio e cucito, e anche qui ne troviamo diverse diffuse in tutte le località del territorio, bene o male. Ecco, questo, diciamo, quindi abbiamo questa, da una parte, questo aspetto di queste numerose maestre che vengono assunte. Io sto proprio guardando adesso, sto iniziando a studiare proprio i fascicoli personali di queste maestre, per quello che si riesce a trovare, per capire anche da dove venivano e quali erano, diciamo, anche loro, come vivevano anche questa situazione, che anche per loro non era sicuramente facile. Ecco, contemporaneamente questa politica, quindi, che va di pari passo, su cui adesso mi soffermo perché è anche molto nota, sulla politica scolastica, quindi l'italianizzazione delle scuole tedesche, abbiamo appunto le autorità locali di lingua tedesca che escono sui giornali in maniera molto forte, le prime pagine, e invitano le madri tedesche, proprio dicono di Mütter, di scendere in piazza a sostegno del mantenimento della cultura tedesca. E anche qui c'è proprio una mobilitazione di massa, direi, delle madri di lingua tedesca. Mi dispiace perché non sapevo che c'era il PowerPoint, se no vi portavo le fotografie dove abbiamo le donne in piazza e dove scrivono una serie di telegrammi e di lettere sia alla regina Elena che al ministero a Roma, presidente del Consiglio a Roma, in cui pregano vivamente di mantenere appunto le scuole in lingua tedesca. Queste donne si mobilitano ancora per un paio d'anni, più o meno fino al 1925, quando capiscono di non ottenere il loro risultato, cosa fanno? Si ritirano, anche qui si dice sempre la Chiesa, il canonico Gamper ha messo sulle catacombe, sicuramente lui guidava e dirigeva, ma se non ci fosse stata dietro questo, di nuovo dico, veramente un numero massiccio di donne locali di lingua tedesca che si sono messe a disposizione, la cosa non avrebbe avuto risultato, non avrebbe avuto forza. E loro sono riusciti a costruire una rete molto capillare di scuole clandestine tedesche, che erano poi in mano a queste maestre che via prendevano il posto nelle scuole pubbliche. Ecco, questo è un po' i primi interventi, e dove si trovano in maniera massiccia le donne fino al 1926. Dal 26 in poi, dal 27, vediamo che iniziano a nascere anche tutta una serie di istituzioni e di strutture. La prima che nasce è l'OMNI, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che qui a Bolzano poi diventerà operativa nel 1927, e anche qui loro prenderanno e gestiranno una serie di dispensari lattanti. Alcuni erano già presenti, li prendono in proprio. E avranno una serie di direttivi e organismi misti, costituiti da una parte dai medici locali, dai pediatri, dai responsabili del fascio, e da una parte proprio dalle donne del fascio femminile, che hanno poi il lavoro reale forte di quello che è l'assistenza di tutte queste, di queste strutture. E ancora segni di questo OMNI li abbiamo perfino ancora adesso, in Viale Venezia c'è ancora una struttura, che era una struttura fra l'altro bellissima, che aveva il lato, aveva l'asilo, aveva il lato per i bambini, aveva le mense anche per le mamme bisognose, e ci sono tutte queste strutture che erano anche quelle bene o male gestite prevalentemente da donne che davano la loro opera. E nel 27 nascono a Bolzano i fasci femminili, la prima fiduciaria o segretaria di fasci femminili è la Giuseppina Sacchi, la quale appunto nel suo atto, nel suo documento di insediamento, dice chiaramente: noi donne dobbiamo occuparci di fini esistenziali e non di politica, la politica la lasciamo appunto agli uomini. E per quanto riguarda lo sviluppo dei fasci femminili, la loro funzione era appunto, prima cosa appunto, le cure esistenziali, dove loro venivano incaricate proprio anche dalla congregazione di carità, che poi è diventata ECA, di fornire appunto proprio il pane e il latte durante soprattutto il periodo invernale ai poveri, oppure anche agli operai che restavano senza lavoro, alle famiglie che comunque avevano bisogno di sussidi. Tutto gran parte avveniva proprio con la delega alla struttura esistenziale dei fasci femminili, che però la sezione femminile dei fasci. Ce n'erano uno, oggi si chiamerebbero circoscrizioni, quindi c'era quella di Centro, c'era quella di San Quirino, c'era quella di Otrisarco, insomma c'erano queste circoscrizioni, più o meno erano sempre quelle, e all'interno proprio venivano dati questi buoni pasto. Questa sarà un'attività che impegnerà sempre più queste donne del fascio femminile, che quindi restano a stretto contatto proprio con le famiglie poveri, ma anche con le famiglie diciamo dei muratori, di quei lavoratori che poi nella fase invernale, diciamo oggi si direbbe vanno in cassa integrazione, comunque restano senza lavoro e richiedono questi sussidi. E questa documentazione non se ne trova tanta, ma nei fascicoli dell'ECA, della Congregazione di Carità del Comune, spesso si trova appunto che restituiscono i buoni pasto, oppure si lamentano perché il fornitore ha imbrogliato, gli ha dato il pane non così come era previsto, e da lì allora si riesce a ricostruire appunto questo percorso. Perché purtroppo la documentazione sulle cose femminili è sempre difficile anche da trovare. Negli archivi si trovano molto le cose politiche, ma queste cose delle donne bisogna proprio andare un po' a scavare. Ecco, queste fasce donne del fascio, oltre a lavorare in maniera molto stretta appunto in questo aspetto più prettamente assistenziale, collaborare nella gestione dell'OMNI, dell'ONAIR, più dell'OMNI, e appunto assistere i poveri, avevano poi tutta una serie di attività dove lavoravano, dell'ampia organizzazione delle colonie attive. C'era una colonia, per esempio, a Planchos, che ha avuto uno sviluppo molto molto forte in quest'epoca. Una colonia, fra l'altro, la cui struttura, sono andata a vederla, è appunto sotto la Plose, ed è una struttura ancora adesso mantenuta come era allora. Adesso ci hanno fatto degli appartamenti, però è ancora tutto abbandonato, sono andata proprio l'anno scorso a vederla. E fra l'altro è una struttura prefascista, perché pensavano di fare un sanatorio ancora in epoca austro-ungarica, e parla addirittura sul progetto di Otto Wagner, famoso architetto austriaco, ed è molto suggestiva. Se volete farvi una passeggiata, andate a vederla, perché proprio tutto è in legno ancora, e c'è scritto ancora vinceremo, ci sono ancora dei segni rimasti su, fra l'altro, che, e adesso ho visto che ci sono degli appartamenti, c'è strutturata nuovo, ma non è abitata. E con queste colonie bisogna sempre tenere conto che avevano anche una risonanza molto forte di propaganda, perfino quando mettevano ad esempio le prime radio, perfino il ministro Federzoni, allora all'epoca era venuto poi su a vederla e parlavano con le radio, i bambini potevano parlare alla radio, le famiglie li sentivano, quindi tutto va visto anche con una grande operazione di propaganda che c'è attorno. Infatti sui giornali qui si trova un'ampia documentazione. Poi la Befana fascista, un'altra iniziativa, anche qui le donne fasciste erano impegnatissime a raccogliere una serie di sussidi, di regali e di doni poi da dare il 6 di dicembre. E poi diciamo molto 6 gennaio, scusate, poi molto, molto attiva era il nastro bianco, cioè i bambini che neonati venivano alle famiglie povere, venivano portati corredini, e qui c'era tutta la struttura dell'organizzazione, quindi le giovani italiane, le piccole italiane, le giovani fasciste, che facevano corsi proprio di cucito e di corredini, insomma, per dare poi questi corredini ai poveri del posto. Ecco, questo diciamo era bene o male quello che era l'attività che veniva fatta a quell'epoca da parte appunto di, delle, insomma, questa è la combinazione più importante che io ho trovato proprio come struttura di partito. Il partito, c'erano tante domande che mi veniva fatta sempre, erano molte queste donne che collaboravano ai fasci femminili, allora io non erano tantissime, però ce n'erano e molto spesso erano o mogli di prefetti, mogli di podestà, mogli comunque di personaggi in vista. E moltissime erano le maestre che collaboravano a questo tipo di attività, però un dato di fatto è che sicuramente dagli anni 30 in poi ogni paese aveva la sua sezione del fascio e anche del fascio femminile con una presenza abbastanza consistente a seconda del paese, ma c'erano paesi anche che avevano anche nei paesi anche più di 100-120 donne iscritte, quindi c'era una certa partecipazione e venivano continuamente sollecitate a fare questo tipo di attività e anche diciamo da Roma veniva spesso appunto il richiamo di lavorare molto e per incentivare proprio le iscritte ai fasci femminili proprio per l'importante attività che veniva svolta dal loro compito assistenziale insieme di promozione della lingua e della cultura italiana. E comunque tutti i paesi avevano il loro fascio. Purtroppo tutti i fascicoli sono andati spariti e non c'è più documentazione, si trova ovviamente attraverso i giornali o attraverso anche le ispezioni poi mandate a Roma, si viene a sapere chi erano, quanti erano, a volte ci sono anche i nomi di queste signore e altro ancora non ho trovato e sarà difficile. Un altro compito molto importante, con questo concludo, che avevano questi gruppi di donne che poi appunto era quello di organizzare la gioventù fascista e soprattutto parte femminile, le piccole e le giovani italiane, poi le giovani fasciste, e lì sì abbiamo tantissime iscritte invece, perché ovviamente venivano cooptati direttamente dalla scuola, quindi abbiamo tantissima gente, ragazzini di lingua tedesca che partecipavano a questi incontri e collaboravano, ed erano soprattutto le maestre che venivano incaricate a organizzare appunto questi gruppi di ragazzi. Per quanto riguarda invece i fasci femminili, io nomi di donne tedesche che partecipassero, devo dire, non ne ho trovati, quindi era difficile insomma coinvolgere. Ecco, questo diciamo un po' il quadro generale di quello che era la struttura e la politica fascista per le donne, con le donne in epoca. Adesso appunto speriamo di poter iniziare anche un lavoro per quanto riguarda proprio il lavoro delle donne operaie, che io non ho, purtroppo non so come fosse la situazione, ma lascio la parola a Rosanna che così ci racconta se non altro la lancia come funzionava. Grazie.